Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parliamo di un argomento che è sempre molto sentito. Parliamo di olio, parliamo di etichette di olio, appunto, parliamo anche di altre etichettature alimentari, anche rispetto, diciamo, alle ultime variazioni che sono avvenute a livello comunitario. Bene, numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, cominciamo, diciamo, questo giro d'orizzonti di opinioni da un giornalista a suo tempo che è stato conduttore anche di Linea Verde, molto appassionato di olio, che ultimamente ha scritto un bellissimo pezzo sulla rivista B-Band con una copertina in cui c'era un'etichetta di olio molto ma molto fasulla che ricorre molto spesso appunto sulle bottiglie che ci troviamo ad acquistare. Buongiorno a Sandro Vannucci. Buongiorno Davide. Bene, allora Vannucci, molte volte le etichette dei nostri oli che compriamo sono veritiere o sono fasulle? Guarda, dire che sono tutte fasulle sarebbe una vera sciocchezza, ma dire che sono tutte vere sarebbe ancora di più una sciocchezza, ho paura. Il fatto è che sulle etichette dell'olio, come di altri generi alimentari, da tempo si fa una grande battaglia. È successo in questi anni che piano piano ci si sta avvicinando a rappresentare anche sull'etichetta la realtà di quello che sta dentro la bottiglia. Ma come si potrebbe dire, insomma, il problema, come si diceva una volta, sta a monte, sta nella produzione di olio all'interno, diciamo così, del Mediterraneo. E l'olio, di olio se ne fa tanto, ce n'è molto in giro e purtroppo non tutto è buono, anzi direi che rispetto a una parte abbastanza piccola di olio buono, molto buono, magari di grande qualità, ce n'è una grande massa che la qualità non sa proprio dove stia di casa. E questa grande massa viene prodotta anche in Italia, ma specialmente ultimamente negli ultimi 15-20 anni in Spagna, e poi si affacciano i paesi, diciamo, del sud del Mediterraneo, dal Marocco alla Tunisia, poi anche per arrivare poi alla Turchia, dove l'olio viene prodotto in grandi quantità, a bassissimo prezzo e anche, ahimè, a bassissima qualità. Bene, allora abbiamo già cominciato a entrare in argomento. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24, visto che questo tema è molto sentito soprattutto dai consumatori che si trovano nei supermercati delle bottiglie d'olio, magari che a 3 euro poi se ne trovano qualcuna a 18, 15, 20 e quindi nasce un po' lo sconcerto. Ma torniamo anche su un argomento che abbiamo trattato un po' di mesi fa, su la tecnica di deodorazione, ed era intervenuta una normativa comunitaria che aveva fatto molto discutere sui limiti dei metilesteri degli acidi grassi ed etilesteri degli acidi grassi. E allora io voglio parlarne di questo con Roberto Lapira, direttore del Fatto Alimentare, che è un grande esperto su questi argomenti. Buongiorno Lapira. Buongiorno. Allora, siamo arrivati, ci sono stati vari cambiamenti di fronte a livello comunitario su questo problema, se non erro. Sì, prima di questo voglio dire, lei parlava della gente che andava al supermercato. Allora, la gente che compra l'olio al supermercato sa perfettamente che negli ultimi anni non trova più sugli scaffali l'olio d'oliva. È letteralmente sparito. Prima ce n'era tanto, adesso è tutto extravergine, meno male. Quindi per un miracolo dell'acqua... miracolo del destino è sparito. Dice, ma come mai c'è tanto olio? Invece c'è tanto olio, diceva Vannucchi. È vero. Allora, la realtà è che l'olio d'oliva è un olio raffinato, quindi un olio un po' raccolto da olive che deve essere deacidificato, deodorato, perché ha un sapore non tanto buono, e diventa olio d'oliva. Che è sparito, allora dove è finito questo olio qui? È diventato extravergine. Come è diventato extravergine? Attraverso la deodorazione. Voglio dire, l'olio extravergine è il prodotto più semplice del mondo, vengono raccolte le olive, spremute, filtrato e imbottigliato. A questo punto, siccome soprattutto in Spagna, è vero, ma anche un po' in Italia, ci vuole il tempo, la cosa migliore è raccogliere olive e spremerle dopo 24 ore, entro 24 ore, ma a volte ci si prolunga di più, ci sono dei ritardi. Allora questo olio qui viene un po' alterato, si altera perché le olive sono un po' ammaccate, per tanti motivi, e acquista un sapore che non è proprio ottimale, per cui non si può vendere come extravergine. Cosa succede? Si fa questo olio, ha un sapore non eccellente, allora viene deodorato, c'è un'apparecchiatura fatta in Italia, venduta dappertutto, dai nostri bravi produttori, e viene strippato, viene tolto questo cattivo odore e viene, siccome da un punto di vista chimico è assolutamente ottimale, viene venduto quindi come un olio extravergine, è deodorato, le analisi è difficilmente riescono, fino a un po' di anni fa era difficile individuare, e questo qui è l'olio secondo me che si trova sul mercato di poco prezzo, questa è un po' la realtà. Cosa ha fatto la Comunità Europea nell'aprile di quest'anno? Di fatto ha autorizzato una parte di quest'olio, diciamo deodorato, l'ha riconosciuto come extravergine. Questa è in buona sostanza la realtà, che da prodotto prima, senza, non esistendo delle analisi, prima veniva tutto commercializzato come extravergine. Adesso si dice, no, deve avere un tot di alchilesteri, che è un indicatore, se rientra in questo limite di alchilesteri si può qualificare come olio extravergine. Ma finisco. Un buono all'extravergine ha dai 0, diciamo idealmente, fino a 30 mg di alchilesteri. La Comunità Europea ha autorizzato fino a 75, sì, a volte certo, anche 150. Sì. E questo è il problema di fondo. Bene, grazie. Questo olio qui, e concludo, è certo, quello che secondo me si trova al supermercato a 2,9 euro. Poi se vuole intervengo anche su questa cosa qui. A 2,5 euro visto, 2 litri di latte. Bene, grazie Roberto Lapira. Sentiamo Aureliano dalla provincia di Campobasso. Buongiorno, radioascoltatore, prego. Aureliano, pronto? Sì, sono io. Parli per cortesia. Allora, io volevo sapere la differenza, siccome sono un piccolo podere, produco olio d'oliva ad uso familiare, circa 50 alberi, ho provato a fare la molitura classica a pietra, e l'olio si tiene un anno profumatissimo, lo togli dal bidone e sembra molito adesso, e ho provato la molitura con il sistema a freddo, mi è diventato acqua, come l'acqua, color d'acqua con un anno. Volevo sapere se questo tipo di lavorazione porta a questo decadimento del prodotto, cioè la differenza tra la macina in pietra e a freddo. Sì. Lei voleva sapere questo. Bene, ora avremo dei tecnici che interverranno di volta in volta, faremo anche questa domanda. Io ringrazio Sandro Vannucci e Roberto Lapira, argomento sentitissimo. Poi mi sembra che l'amico Roberto Lapira ha già lanciato veramente un bel sasso in piccionaia, spiegando come si spiega l'olio a 3 euro e come si spiega la sparizione dell'olio d'oliva. Quindi abbiamo anche Giovanni da Roma, un altro radioascoltatore. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Paolini, grazie per avermi chiamato. Mi dica. Premetto che sono un patito per l'olio di oliva e quando compro olio di oliva vado direttamente con la macchina a Spoleto a prenderlo in un frantoio. Bene. Ma mi chiedevo, ma come mai ci sono degli oli che dicono che sono extravergine oliva e costano 3 euro e poi sapevo, ci fanno la bruschetta e c'ha un sapore come quello che io l'ho fatto così per un esperimento, che sa il sapore di quello dell'olio di oliva, ma come fanno a truccarlo così bene? Ci sono queste possibilità per farlo? È quello che voglio sapere, perché non riesco a capire. Grazie Giovanni. Bene, abbiamo con noi Massimo Gargano, poi avremo anche il colonnello Maurizio Degli Santi, poi ci spiegheranno magari questo fatto. Allora, buongiorno a Massimo Gargano, che è presidente del Unaprol. Gargano, io volevo chiederle questo. Roberto Lapira ha spiegato prima che è sparito l'olio d'oliva dagli scaffali, mentre ormai appare tutto oliva o olio d'oliva extravergine, spiegandolo con la deodorazione, con le grandi tecniche di deodorazione, anche in base a queste ultime normative comunitarie che sono state molto contestate, molti sono pro, altri sono contro. Lei cosa ne pensa? Ma Paolini, intanto buongiorno, grazie, perché ci vuole del coraggio per affrontare argomenti come questi. Finché ci saranno oli a 3 euro sugli scaffali, i nostri consumatori sicuramente acquisteranno un olio extravergine a un eccellente prezzo, ma una convinzione debbono averla. delle domande debbono porsele. Probabilmente stanno acquistando a un ottimo prezzo un lubrificante, cosa perfettamente diversa e assolutamente diversa da un olio, da un prodotto che si consuma crudo, questo va detto. L'olio è esattamente come una pesca, quando la stacchiamo dalla pianta e la mangiamo, come un'uva, si consuma crudo. E noi mettiamo nel nostro organismo un prodotto che a 3 euro sta sullo scaffale, il che significa che è un prodotto che sostanzialmente, tolto un 30-40% di ricarico della grande distribuzione, di coloro che l'hanno portato lì, del tappo, dell'etichetta, delle controetichette e del salvagoccia lì dentro, no, c'è anche un lubrificante di scarsissima qualità. Senz'altro il prodotto deodorato, senz'altro va bene il prodotto raffinato male, senz'altro degli oli di bassissima qualità, poi colorati con delle clorofille, perché di questo si tratta. Purtroppo i meccanismi di controllo sono meccanismi efficientissimi, ma con le regole del gioco. Oggi la presenza degli alchil esteri, di cui c'è un'unità di misurazione a 75 parti per milione, danno uno strumento in più a delle straordinarie forze dell'ordine molto impegnate, degli Santi è in prima fila, ma come lui anche gli altri organismi. Beh, io credo che queste forze, peraltro contestate da talune associazioni di commercianti ed industriali, oggi con gli alchil esteri a 75 parti per milione hanno uno strumento in più. Indubbiamente, le dico anche, e lo dico ai nostri amici ascoltatori, due cose. Noi come Unaprol presenteremo una nostra proposta in Europa, confortati da una banca dati, per dimostrare che questo limite di 75 è ancora molto alto. Faremo, lo stiamo facendo con una collaborazione che stiamo accendendo con San Michele all'Adige, una banca dati per lavorare anche sugli isotopi, per dimostrare di che si tratta quando si tratta di oli e quando si tratta di lubrificanti. Diciamo agli amici consumatori che finalmente il ministro dell'agricoltura romano ha predisposto una norma per cui no, l'origine, quell'origine che è obbligatoria in etichetta e che viene scritta a caratteri infinitesimali nella retroetichetta, adesso deve essere scritta, se l'Unione Europea sarà d'accordo, a caratteri più grandi e nella etichetta davanti. Poi diciamo, ogni volta che è possibile, facciamo esattamente come quel signore di prima, andiamo a comprare direttamente alle imprese. Grazie, grazie a Massimo Gargano. Abbiamo Licia dalla provincia di Napoli. Buongiorno Licia. Buongiorno signor Paolini. Ascolti, l'esperto ha centrato il problema. Giustamente, come si fa quando un supermercato, capisco anche la loro politica, che hanno quelle richieste, quando lei paga una bottiglia di extra vergine 4-5, che può essere? Quindi anche le targhette sono falsate, ma come si fa, soprattutto uno che non guida? È un dramma comunque, è un'odissea. Bene, bene, cercheremo di farglielo portare a casa. Grazie Licio dalla provincia di Napoli. Ora andiamo al colonnello Maurizio Degli Santi dei NAC, che sarebbe il Comando Carabinieri Politiche Agricole, che diciamo fa una battaglia antifrodi abbastanza vasta. Io qui ho una serie di sequestri proprio fatti tutti sull'olio. Volevo chiedere, colonnello, ma l'olio veramente diciamo è uno dei prodotti più falsificati che esistono sul mercato? Un saluto agli ascoltatori e ai relatori che mi hanno preceduto, e ovviamente hanno messo in luce un po' alcune zone grigie della normativa, dove però ovviamente si stanno facendo dei grossi passi avanti. E intanto vorrei dare un'indicazione rassicurante. Ecco, il settore degli oli è il settore più controllato nell'ambito del comparto agroalimentare. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali all'inizio di ogni campagna olearia predispone una attività di controlli straordinari che riguardano tutti gli organi di vigilanza del Ministero. Ecco, l'attività dei nuclei antifrodi carabinieri ovviamente è vocata soprattutto a individuare i grossi illeciti. L'attività che viene svolta innanzitutto è di analisi sui flussi commerciali. Come è stato osservato acutamente, ovviamente quello che più preoccupa è l'importazione di alcune produzioni di olive che possono essere interessate dai processi di deodorazione. Questo perché ovviamente noi ci confrontiamo con delle realtà produttive internazionali dove si sfrutta largamente i sistemi intensivi di produzione. Consideri che le nostre produzioni hanno mediamente circa 250-300 piante per ettaro, mentre ci confrontiamo con altri paesi dove hanno 2000 piante per ettaro. Questo che cosa comporta? Comporta dei grandi ammassi, delle grandi giacenze di olive che ovviamente fanno attivare dei processi di degradazione del prodotto per i quali ovviamente non può più ritenersi olio extravergine di oliva, e perché viene poi avviato non più al tradizionale e ordinario processo di lavorazione, che è quello che poi preserva l'apporto vitaminico e polifenoli e tutte le qualità nutrizionali degli oli d'oliva. Quindi su questo fronte noi stiamo svolgendo una efficace azione di controllo per prevenire queste frodi che ovviamente alterano il sistema di produzione dell'olio extravergine d'oliva. Però ecco, vorrei dire che l'attività di prevenzione è svolta ad ampio spettro e proprio i nostri sequestri dimostrano che i controlli ci sono e bene, funzionano. Grazie al colonnello Maurizio Dellisanti. Sentiamo Diego da Venezia, un radioascoltatore. Buongiorno Diego. Sì, buongiorno. Io volevo più che altro fare una considerazione. Mi sente? Sì, prego, continui. Una considerazione. Allora, io mi occupo di igiene alimentare nei locali, negli ambienti, nei ristoranti, e penso sia una legge nazionale. Qui in Veneto comunque c'è l'obbligo di esporre la bottiglietta, no, originale con l'etichettatura dell'olio, altrimenti c'è una sanzione di 1200 euro. Sì, ma in tutta Italia, non è solamente in Veneto. Va bene, volevo sì. Ok, in tutta Italia. Secondo me questo è un onere a carico del ristoratore, già è pieno di tasse e spese. Dobbiamo costringerlo a mettere in esposizione un olio, che ne so, da 33 cc con l'etichettatura per salvaguardare il consumatore. Il consumatore che deve sapere che cosa mangia, che cosa mangia. Mi scusi Diego, ma quella bottiglia aperta dimostra ben poco, perché le bottiglie aperte dimostrano ben poco. Quindi c'è stato un tentativo anni fa di imporre una bottiglietta 0100 chiusa, e che quindi doveva essere sostituita ogni volta. Non mi ricordo quale ministro delle politiche agricole che fece questo provvedimento. In realtà questo provvedimento è sparito, non se n'è più sentito parlare, addirittura io non ho più visto sui tavoli dei ristoranti questa bottiglietta, perché appunto non era più imposta. Quindi credo che fino a quando la bottiglietta non sarà chiusa oppure non sarà ben sigillata e ogni volta sarà aperta di fronte al consumatore, credo che valga ben poca. Grazie Diego da Venezia. Sentiamo Giuseppe da Napoli. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno signor Paolini, complimenti per la trasmissione. Senta, è vero che ci sono questi oli che costano 3 euro, ma per converso ci sono degli oli che costano 17 o 18 euro a bottiglia, e mi sembra che ci sia anche qui qualcosa che non va, perché non è detto che un olio, per quanto sia genuino, debba costare 17 o 18 euro. Si genera una confusione nel consumatore. Poi hanno questo verde sospetto, peraltro, insomma, questo verde smeraldo. Che io mi sono cresciuto in una famiglia, concludo, con una grande cultura dell'olio, perché siamo stati piccoli produttori, abbiamo tanti amici che lo producono anche a 7 euro al litro, e sono i prodotti fatti davanti a me, spremuti davanti a me. Quindi tutto qui. Beh, caro Giuseppe, se lei va a vedere le scaffalature di enoteche, di supermercati, di negozi, vede che ci sono vini dello stesso luogo, dello stesso vitigno, che costano 5 e altri che costano 50. Sicuramente questa è una politica di qualità, di griffe, che chi riesce a imporre ben per lui. Quindi le differenze esisteranno sempre. Quel verde che lei dice che ritrova, beh, io lo andrei a vedere anche su molte gelaterie che mettono pistacchio davanti a dei gelati colorati in maniera spaventosa. Soprattutto ora abbiamo con noi il ministro Saverio Romano, a cui do il buongiorno e grazie di essere intervenuto con noi. Sì, buongiorno a tutti. Ministro, la prima cosa che le chiedo, poi passiamo all'olio. Le volevo chiedere, la comunità europea ogni volta diciamo che non è sempre disponibile a far sì che nei nostri provvedimenti sulla denominazione di origine dei prodotti così sia favorevole. Secondo lei qual è questa motivazione? Perché questa rigidità? Io immagino che sia la spinta dei paesi che fanno soltanto trasformazione e che quindi non possono vantare prodotti come quelli che vanta l'Italia, e quindi la resistenza è ad individuare quell'olio che proviene in questo caso dall'Italia e da altri paesi del Mediterraneo che sono i principali produttori. Vede, là c'è un problema di duplice profilo. Il profilo che riguarda anche la salubrità dei nostri cibi, di ciò che portiamo a tavola, e quindi la tracciabilità e la etichettatura danno maggiore sicurezza, ovviamente, perché più facilmente si può risalire all'origine del prodotto. Dall'altro lato c'è il profilo del sostegno al nostro mercato. Il nostro è un mercato di eccellenze che può essere promosso e sostenuto soltanto se il consumatore riesce a individuare quel prodotto come effettivamente prodotto italiano. Allora, da questo punto di vista noi stiamo portando avanti una battaglia anche in sede europea per convincere gli altri paesi che tracciare ed etichettare anche i loro prodotti conviene, perché anche loro nel mercato globale scontano le difficoltà che sconta il nostro paese in termini di competitività per prodotti di larghissimo consumo e a basso costo provenienti magari dalla Cina. Ecco, lei appena è arrivato al Ministero è intervenuto proprio sull'etichettatura dell'olio d'oliva extravergine. È sicuramente uno dei prodotti che vogliamo più sofisticati, forse più taroccati che ci sono sul mercato. Ecco, perché aveva sicuramente dei dati che davano diciamo così frutto all'etichettatura sbagliata oppure erronea oppure volutamente così piccola scritta piccola sulla provenienza delle olive. Ecco, dopo questo provvedimento lei sta pensando ad altro? Diciamo che intanto questo provvedimento mette fine alle cosiddette etichettature incerte o ingannevoli, perché dà la possibilità al consumatore di leggere in caratteri che non sono quelli da contratto di assicurazione la provenienza del prodotto e il suo, in questo caso, imbottigliamento. Dire un prodotto italiano non basta, bisogna individuare, non dico la pianta dalla quale proviene l'olivo, ma in questo caso almeno l'azienda da dove proviene la materia prima che poi trasformata diventa olio. Detto questo, noi abbiamo ad oggi ricevuto l'ok dall'Unione Europea per 5 categorie merceologiche: l'olio extravergine d'oliva, il latte fresco, la carne bovina, l'ortofrutta e il miele. Stiamo lavorando per ottenere l'ok sulla carne suina. Siamo sulla buona strada, perché ritengo che questa nostra logica, che per certi versi portiamo avanti anche attraverso la nostra diplomazia, io ho fatto diversi incontri bilaterali nelle ultime 2 settimane, e con la moral suasion i paesi europei cominciano a comprendere quanto sia importante anche per loro aprire lo spazio dell'etichettatura a tutte le categorie merceologiche dell'agricoltura. Ecco, mi sembra che da questo elenco che lei ci ha dato manchino formaggi e salumi. Mancano ancora proprio per quella logica, il formaggio. Noi abbiamo più difficoltà nei cosiddetti prodotti trasformati, certo. Sia il formaggio sia i salumi sono prodotti trasformati e incontriamo maggiore difficoltà, ne abbiamo meno quando si tratta di prodotto diretto. Anche diciamo la verità, insomma, molto, molto latte trasformato in formaggio e molti salumi sono frutto di provenienze estere, quindi della materia prima. Purtroppo sì, e io invito anche i nostri produttori a stare attenti su quello che è un vantaggio immediato, ma che nel lungo termine diventa una vera e propria tragedia, perché quando i cinesi, faccio l'esempio dei cinesi per indicare un paese emergente che riesce a produrre tanto e a basso costo, non dico i cinesi per dire, no? Riusciranno a mettere in campo le loro logiche di produzione su prodotti che sono simili ma che hanno ancora uno spazio larghissimo dentro il mercato globale, si vedranno, come dire, restringere le nostre possibilità di occuparli quei mercati. Ma se noi invece ci specializziamo e sosteniamo la nostra eccellenza, magari oggi vendendo qualcosa in meno, ma sapendo che soltanto in Italia si trovano alcuni prodotti, nella prospettiva saremo gli unici a poter occupare un mercato di eccellenza che cresce sempre di più, perché ricordiamoci che questi paesi come la Cina e l'India, vero è che stanno facendo tanti prodotti ad imitazione, ma è pur vero che stanno ampliando la loro gamma di consumi non soltanto quantitativamente ma anche qualitativamente, in ragione del fatto che vi sono tanti ricchi che vogliono consumare eccellenza. Sì, sta succedendo, e questo, diciamo, andiamo fuori dell'olio, però mi sembra importante, visto che lei è in trasmissione con noi, ricordare che negli ultimi mesi molti prodotti cinesi hanno ottenuto l'IGP e la DOP, mentre ci sono moltissimi prodotti italiani che stazionano ancora a Bruxelles e non hanno un riconoscimento. Questo sicuramente per un fatto. Stiamo facendo un lavoro, guardi, negli ultimi 3 mesi ne abbiamo ottenuto almeno 3 di IGP. Io mi contenterei di una al mese, abbiamo fatto col cioccolato, e quindi anche i modicani, che tengono molto al cioccolato di Modica, possono brindare. Ma al di là di questo, io ho portato in Italia la scorsa settimana il commissario europeo da Ciancolos e il ministro dell'agricoltura cinese. L'ho portato in un'azienda DOP della Sabina, tra le altre cose sono rimasto molto impressionato dalla presenza in questa nostra azienda di un ulivo datato circa 2000 anni con la prova al carbonio, un ulivo che ancora oggi produce 1200 quintali di 1200 kg di olive l'anno. La domanda che mi è stata fatta dal ministro cinese è: ma dopo quanto tempo questi alberi entrano, queste piante entrano in produzione? Mediamente sono 5-6 anni per avere un certo tipo di prodotto. Beh, prepariamoci a immaginare, certo, che questi lavoreranno, come dire, per fare in modo che questa materia così importante, l'oro verde come, certo, viene chiamato, possa essere prodotta anche da loro. Allora, da questo punto di vista non ci aspettiamo sconti, evitiamo di mettere dentro le bottiglie dell'olio italiano l'olio comunitario, mettiamo dentro l'olio italiano, facciamo in modo che questo cresca in qualità ed eccellenza sempre di più, così ancora più difficilmente i cinesi potranno copiarlo. Bene, io la ringrazio, grazie al ministro Saverio Romano di essere intervenuto, la ringrazio. Grazie a lei, grazie, a presto. Bene, continuiamo, sentiamo Massimo dalla provincia di Torino, buongiorno Massimo. Sì, buongiorno. Senta, però al succo del discorso, potrebbe essere: usiamo tranquillamente l'olio extravergine, da quello da 5 e 3 euro per cucinare in sostituzione del vecchio olio di oliva, e sulla tavola invece si può portare un olio prodotto da un'azienda agricola. C'è chi dice che cucinare forse vanno meglio, vanno anche bene gli oli di semi, quindi sicuramente, però guardi che se è taroccato, taroccato rimane, sia per cucinare, non è che si debba cucinare con oli di scarsa qualità, oppure si debba usare vino di scarsa qualità per cucinare. Anche cucinare bisogna usare degli oli validi, non oli di serie B. Grazie a Massimo dalla provincia di Torino. Buongiorno. Sentiamo Stefano dalla provincia di Roma, buongiorno Stefano. Ciao. Salve, buongiorno. A me il dubbio mi sorge soltanto quando nelle bottiglie viene scritto olio di provenienza comunitaria, perché noi non sappiamo veramente come viene raccolto, se cade a terra l'acidità è superiore, e non sappiamo questi comuni, questi stati comunitari da dove prendono le olive e vengono imbottigliate. Io consiglierei, anche se è un mio modesto parere, di usare esclusivamente l'olio di provenienza italiana. Questo è il mio punto. Sì, Stefano. Mi sembra... Prego. Prego, prego, dica. No, no, è perché mi sembra un po' troppo scarno olive di provenienza comunitaria. Mi sembra una dicitura un po' troppo blanda. Ridotta. Ma io, Stefano, starei molto più preoccupato degli oli extracomunitari, a dire il vero. Comunque, questa è una mia impressione. Sia l'uno che l'altro, però sempre di più oli anche di provenienze molto, ma molto dubbie, che non fanno parte dell'Unione Europea, probabilmente hanno ancora molto meno controlli. Però sentiamo Norma dalla provincia di Roma. Buongiorno Norma. Pronto Norma? Pronto? Sì, prego Norma, parli per cortesia. Ciro Paolini? Sì, parli. Senta, io le volevo dire una cosa, io seguo sempre la sua trasmissione. Qualche anno fa io ho sentito che per scrivere sulla bottiglia olio extravergine di oliva ci doveva essere almeno il 10% di olio puro. A che a me mi è preso un colpo. No, guardi che sicuramente è impossibile questa... Chi l'ha detta veramente ha sbagliato tutto. L'ho sentito lì alla trasmissione, perché io la seguo sempre, gli faccio i complimenti, è stupendo, perché ci viene informati di tante cose che non sappiamo. Poi non esiste olio puro, cioè non è che esiste olio puro o olio impuro. Cioè l'olio extravergine deve avere certe qualità secondo una certa normativa. Quindi questo è il punto, ma non è olio puro. Olio puro non significa assolutamente niente. Comunque mi sembra che appunto qualcuno l'ha annunciato, un radioascoltatore o d'altro, oppure mi spiace se non è stato corretto immediatamente. Sì, un radioascoltatore. Sì, ah beh, sì, certo. Sì. Bene. Perché allora l'olio che costa 2 euro, 3 euro, 4 euro, a volte sono tentata di prenderlo, però mi viene un po' qualche dubbio, capisce? Beh, guardi, sentiamo, abbiamo con noi Piero Gonnelli, che è presidente dell'AIFO. L'AIFO è l'Associazione Italiana Frantoi Oleari, che addirittura è a New York e l'abbiamo svegliato nel pieno della notte. Buongiorno Gonnelli. Buongiorno, buongiorno Paolini, buongiorno alla signora Norma e a tutti voi. Ha sentito cosa dice la signora Norma, lei cosa ne pensa? Beh, è la dimostrazione della confusione che c'è fra i consumatori per quanto riguarda il mondo dell'olio. Purtroppo non è la sola ad avere queste problematiche. Ora, questo è un caso un po' anomalo che non avevo mai sentito, però è un settore dove regna una grande confusione. Senta, ci eravamo sentiti un paio di mesi fa appunto su quella normativa comunitaria sulla deodorazione, sul discorso dei metilesteri, degli acidi grassi, insomma quella al limite di 75. Oggi l'intervento di Roberto Lapira, molto preciso, direttore del Fatto Alimentare, ha detto: sapete perché non si trova più olio d'oliva negli scaffali? Semplicemente perché attraverso la deodorazione e attraverso queste regole diventa olio d'oliva extravergine. Lei cosa ne pensa di questo? Ha detto una sacrosanta verità. Purtroppo questa pratica ormai da anni è di uso corrente, soprattutto in paesi extra Italia, diciamo, e il prodotto viene sottoposto a questi processi di deodorazione, di deacidificazione, e quindi anche oli difettosi, oli di qualità molto bassa riescono a essere poi spacciati come extravergini. Per fortuna ora è arrivata questo nuovo metodo di analisi che consente di smascherare queste truffe. Bene, rimanga con noi anche se l'abbiamo svegliata. Primo dalla provincia di Bergamo, un radioascoltatore. Buongiorno Primo. Buongiorno Paolini, complimenti per la trasmissione. Ascolti, io sono un appassionato d'olio, sia io che mia moglie. Ultimamente ci siamo fatti trarre in inganno al supermercato da una notissima marca, non dico il nome per ovvi motivi, produttori d'olio extravergine dal 1000 e vate la pesca, 7 euro un litro. Di bianco c'era un'altra bottiglia, 3 quarti 7 euro, con la denominazione DOP. Al momento così ci siamo fatti prendere e abbiamo preso la bottiglia qua da un litro. Quando sono stato a casa, così mi è venuto da guardare, dico, ma quest'olio qui da dove viene? C'era, per trovare la provenienza dell'alpone e olli di provenienza comunitari, ho dovuto prendere la lente di ingrandimento, ma sì, sai che ci sono le lenti di ingrandimento, quelle che poi ancora all'interno hanno un'altra lentina ancora, sì, più grande, per trovare la scritta oli di provenienza Primo, la interrompo per un motivo, che abbiamo invitato il ministro Romano prima proprio per questo, perché uno dei primi provvedimenti che ha fatto è stato proprio quello di portare la grandezza della scrittura di olio di olive di provenienza comunitaria allo stesso livello di olio extravergine d'oliva. Quindi speriamo d'ora in poi che questo avvenga. Gonnelli, lei è d'accordo su questo, questo intervento? D'accordissimo, guardi, ci voleva, la nostra associazione sono 3 anni che lo sta chiedendo. Bene, almeno qualcosa cominciamo ad andare avanti, forse arriveremo prima o poi a sapere esattamente cosa c'è dentro le bottiglie di olio. Bene, abbiamo con noi anche un grande chef, ma un grande produttore di olio, che è Alfonso Iaccarino. Buongiorno Alfonso. Ciao Davide, buongiorno. Allora Alfonso, prima è intervenuto un radioascoltatore da Venezia e ha detto, io tra l'altro non l'ho fatto neppure finire perché sono intervenuto con una vecchia normativa che prevedeva la bottiglietta da 0,100 per i ristoranti, diceva appunto che molti ristoranti presentano delle bottiglie ma aperte e quindi chissà che olio ci sia dentro. Tu cosa ne pensi? Dovrebbero esserci delle regolamentazioni su questo? Ma certamente ci dovrebbero essere delle regolamentazioni, però secondo me bisogna lavorare ancora più in profondità e credo che sia opportuno per una maggiore chiarezza innanzitutto specificare il fatto dell'importanza dell'olio extravergine agli effetti salutari, secondo la provenienza. La provenienza basterebbe certificare a livello comunale, quest'olio è stato prodotto in quel fondo in questa quantità, ed è una cosa semplicissima perché qualsiasi assessore all'agricoltura dei comuni italiani può fare questo attraverso un suo funzionario o un suo dipendente, quindi questo servirebbe a tutto per togliere qualsiasi dubbio su queste cose e quindi la gente capisce l'importanza del lavoro che si sta facendo da anni. Bene, sentiamo una domanda sicuramente che ti interesserà Alfonso. Franca dalla provincia di Torino, buongiorno Franca. Pronto, buongiorno. Senta, io ho telefonato perché prima ho sentito, secondo me, un'imprecisione, in quanto è stato detto che per friggere è bene usare gli oli di semi. Invece, io le posso dire, ho studiato biologia e quindi questo lo so per certo, che gli oli di semi cotti non fanno assolutamente bene e invece bisogna friggere con gli extravergine. Questo non è mai stato, cioè non è mai stato pubblicizzato. No, no, guarda, che è stato pubblicizzato, e come questo? Cioè, con gli oli di semi non bisogna friggere, non bisogna portarli a temperature troppo alte perché sprigionano delle sostanze che sono addirittura cancerogene. Quindi per friggere assolutamente olio extravergine. Bene. Purtroppo le devo dire una cosa, e anche questo lo devo dire. L'extravergine una volta era fatto solo con premitura di polpa, adesso purtroppo con le leggi comunitarie viene immesso anche quello che una volta era l'olio di Sansa, cioè fatto con i semi, e questo è molto dannoso. Purtroppo sono state cambiate le leggi. Bene, il problema è che bisogna stare attenti quando si frigge con l'olio d'oliva extravergine sul punto di fumo. Alfonso, tu cosa ne pensi sulla frittura? Io dico assolutamente friggere con olio extravergine d'oliva. Come? Usare dei piccoli recipienti, perché anche in casa, anche al ristorante, se noi diminuiamo la quantità, logicamente diminuiamo anche il costo, perché bisogna friggere anche con un olio di grandissima qualità. Ultimamente ho incontrato professori dell'Università di Agraria di Portici, che insieme all'Università di Oslo e quella di Tokyo, è un'università americana, hanno stabilito che agli effetti delle cotture, degli effetti salutari, il sistema migliore per cuocere il cibo, stranamente, è proprio la frittura, è quello che fa più bene di tutto. Però è importante, in ogni caso, una volta fritto, eliminare l'olio, perché se si friggere la seconda volta è lì che avvengono i danni. E assolutamente usare olio extravergine d'oliva per il punto di fumo, è chiaro. Questo è fondamentale ed è dimostrato anche scientificamente che quando non si usano olio extravergine di oliva, oppure si usano oli che si rifriggono e si usano molte volte, sono molto cancerogeni e fanno malissimo per la salute. Grazie Alfonso, io ringrazio Piero Gonnelli, le auguro di nuovo buonanotte Piero. Grazie a voi, fa sempre piacere. Bene. sempre veramente un piacere, anche perché serve questa trasmissione, serve a portare un po' di chiarezza dove ce n'è tanto bisogno. Grazie, grazie. Ora abbiamo chiuso questo giro. Ringrazio in regia Paolo Corleoni, Viola Bottoni, Alessandro Balia e vi do appuntamento domani alle 11.15 con il riposo del guerriero e ogni giorno con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Buona settimana dal gastronauta.